Infatti Draghi sembra dire in sostanza che i tempi per il ritiro della Banca Centrale Europea dal suo programma di quantitative easing, quello che in gergo si chiama tapering, che consiste poi nella riduzione del ritmo e della quantità di acquisti effettuati dalla BCE sui mercati, può aspettare. Quindi le dichiarazioni di Draghi vanno lette nel senso, come dicevi giustamente, di una rassicurazione rivolta ai mercati sul fatto che la BCE andrà più lentamente del previsto rispetto al percorso di riduzione della sua attività sui mercati, che era invece stato ipotizzato a inizio anno, diciamo anche in un contesto sia economico che politico molto diverso. Sono due i fattori principali a cui Draghi sta guardando in questo momento e a cui la BCE sta guardando in questo momento per leggere questa dichiarazione. Il primo è l'inflazione, che naturalmente non aumenta. In realtà l'inflazione ha deluso le aspettative, è più bassa della previsione di consenso appunto nel terzo trimestre, e anche le previsioni relative al 2018 sono state riviste al ribasso, e quindi non ci sono segnali di un indice dei prezzi al consumo in aumento, soprattutto per quanto riguarda la componente core, che è la componente che esclude i prezzi dell'energia e di alcune componenti molto significative che però non sono legate proprio alla domanda interna e al contesto della ripresa economica, quindi possono essere fattori esogeni. Infatti il prezzo del petrolio notoriamente è una variabile che ha molta influenza sull'inflazione, ma rispetto alla quale le autorità monetarie non possono agire. Il secondo punto è quello dell'apprezzamento dell'euro sul dollaro, che sta ricominciando. L'apprezzamento dell'euro sul dollaro è stato letto, diciamo, da più parti come un qualcosa che internalizzava le aspettative rispetto appunto alla riduzione del quantitative easing da parte della BCE in quest'autunno. In buona sostanza però, se andiamo a guardare i dati, ci rendiamo conto che questa relazione tra le aspettative rispetto alle azioni della BCE e l'andamento dei tassi di cambio non risultano davvero correlate, ma c'è una ragione storica per cui, diciamo, in questo momento l'euro si sta apprezzando, che è legata al fatto che nel passato, cioè quando è stato annunciato il quantitative easing, sono stati moltissimi gli operatori, soprattutto nei paesi emergenti, in Cina, in moltissimi mercati comunque extraeuropei, che hanno preso posizioni short sull'euro, cioè hanno venduto le quantità dei portafogli denominati in euro per acquistare altre valute, proprio perché dietro c'era l'idea che con il quantitative easing i tassi di interesse su una classe di titoli si sarebbe abbassata e quindi ci sarebbero stati pochi rendimenti da procurarsi. Ecco, in questo caso però, dopo un po' di tempo che questa posizione persiste, bisogna ricoprire la propria posizione, quindi bisogna invertire quello che si è fatto negli anni precedenti, ed è un po' quello che sta accadendo. In gergo la stampa finanziaria lo chiama short squeeze, e questo significa che praticamente tutti coloro che si sono indebitati, che hanno comunque venduto euro, lo devono ricomprare per continuare ad andare avanti con le proprie attività. Ora, tutto questo per dire cosa? Che se questo apprezzamento dell'euro continua, sostenuto anche da un surplus commerciale tedesco che assolutamente non dà segni di riduzione e che è una forza che di per sé tende ad apprezzare l'euro, perché avere un surplus commerciale significa che il resto del mondo sta domandando più euro di quanto l'Europa, l'eurozona domandi altre valute, quindi quelle che importano i beni prodotti dall'eurozona. Queste due cose ci suggeriscono l'idea che l'euro potrà apprezzarsi ancora in futuro, e a questo punto bisogna capire cosa fare. Provare, diciamo, ulteriormente ad aumentare il quantitative easing è un'opzione fuori dal tavolo, semplicemente perché ci sono già tantissime resistenze tedesche rispetto all'attuale quantitative easing. A questo punto anche ridurre in maniera molto rapida il quantitative easing potrebbe portare ad un ulteriore apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, il che colpirebbe chiaramente la competitività dei prodotti esportati dall'eurozona, dalla Germania in particolare, e questo chiaramente andrebbe a colpire proprio gli stessi interessi di coloro che si rivelano antagonisti del quantitative easing. Quindi la BCE è in questo momento in una sorta di impasse. La sua azione non sta riuscendo a potenziare l'inflazione, e al contempo l'effetto positivo per le esportazioni che si era creato a inizio 2016 sta svanendo. È in questo contesto appunto dove i governi comunque continuano ad essere obbligati a fare sostanzialmente dell'austerità. Oggi non se ne parla più tanto e non la si definisce in questo modo, ma di fatto è così. E gli ultimi discorsi sulla possibilità di creare un ministro delle finanze dell'eurozona sono improntati proprio all'idea di controllare i bilanci nazionali. Politica monetaria che resta in un limbo, l'eurozona si può trovare di fronte a un impasse economico molto forte nel 2018, a meno che non ci siano cambiamenti politici significativi. La fine del quantitative easing era fortemente voluta dai falchi tedeschi. Ora che la CDU è uscita ridimensionata dalle elezioni potrebbe cambiare qualcosa? Beh, sicuramente i segnali che provengono dalle elezioni tedesche non sono stati accolti con tranquillità, diciamo, dall'establishment tedesco, e questo sicuramente può essere una forza che impedisce, se non altro, alla Germania di agire in maniera così aggressiva sul quantitative easing. E in questo senso ci si può aspettare che nei prossimi mesi, all'interno del board del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, le pressioni dei falchi per una riduzione del quantitative easing siano inferiori. Ecco, un'ultima domanda riguarda l'Italia. Si sta discutendo del DEF, che poi appunto sfocerà nella legge di stabilità, e si è parlato della cancellazione anche dalle clausole di salvaguardia dell'aumento dell'IVA, di cui si parla oramai da mesi, se non da anni. Questo potrebbe avere un effetto sullo stentare dell'inflazione? No, domanda giustissima. Naturalmente l'idea è che un aumento dell'IVA può portare a due effetti di tipo opposto, cioè da un lato è una tassa e quindi chiaramente l'aspetto che si nota è che aumenterebbero i prezzi, nel senso che è questo quello che si è osservato solitamente. Dall'altra, chiaramente un aumento dell'IVA in questo contesto avrebbe portato sicuramente a un minor livello di consumi, il che è un fattore che di per sé spinge al ribasso il livello dei prezzi. Il problema fondamentale dell'Italia chiaramente è quello della domanda, quello dei consumi, e quindi in realtà dal punto di vista dell'inflazione sicuramente anche in presenza di un aumento dell'IVA significativo sarebbe stata colpita sicuramente l'occupazione, sicuramente la produzione. Sono incerti, diciamo, gli effetti che questo avrebbe potuto avere sull'inflazione, ma le forze che normalmente portano l'inflazione in alto, cioè comunque una domanda di beni e servizi su base sostenuta, sono in Italia azionari se non prossime al congelamento. Sarà interessante capire se appunto a questa riduzione, non poi almeno da quello che si dice non effettuata dell'IVA, dovrà corrispondere da parte del governo italiano qualche impegno ulteriore nei confronti di Bruxelles, anche perché in prossimità delle elezioni del 2018 e quindi in vista delle previsioni di primavera della Commissione Europea, che sono il preludio rispetto ai diktat che conosciamo, ci sarà qualcosa che il governo italiano dovrà fare per compensare questa mancanza. La certezza è che l'epoca della flessibilità, poi concessa comunque agli ultimi governi Renzi e Gentiloni, sempre diciamo in maniera molto molto molto cauta, sia comunque destinata al termine, a meno che non ci sia appunto il rischio forte, rischio chiaramente per l'establishment, che i partiti della stabilità perdano nettamente, non tanto per, diciamo, con il livello tedesco, ma che possano anche rischiare di non andare al governo. Ecco, in questo senso forse sarebbe più plausibile vedere un aumento della flessibilità.